Io, Diego Spadari, lo giuro, non avevo mai rubato niente. Beh, non ho mai fatto molte altre cose. Un'orgia, non ho mai fatto volontariato, una vacanza in bici e poi non sono neanche mai svenuto. Una cosa però l'ho fatta. Mi sono sdraiato su un'autostrada. Sì, anni fa, di notte, insieme a un mio amico. Non lo so il perché. Stiamo correndo nella sua macchina, carica di chilometri. La serata appena trascorsa non ci basta. Siamo nervosi, in ricerca, diciottenni. E abbiamo sbagliato direzione. Quando ce ne accorgiamo, accostiamo in una piazzola per una sigaretta, sperando che riesca a placarci. Nel silenzio rombante, che sembra minacciare un crollo, nella notte ficcata a forza dentro al nero. Non c'è nessun altro in viaggio. Gettiamo i mozziconi al di là della corsia di emergenza. Ci sdraiamo? 5 passi fuori dalla membrana protettiva, oltre la linea bianca. Proseguiamo. La superficie nero carbone sembra convessa, i movimenti faticosi, impigliati. Qualcosa urla con troppa insistenza sotto le costole. Altri 5 e siamo sulla mezzeria. Cerco gli occhi dell'amico, ma sono spariti nel buio. Solo un vago cenno del capo e giù. Giù. Giù c'è tepore. E mi stupisce l'asfalto, che avevo sempre immaginato identico a quello dei marciapiedi. Mentre invece è imponente. Fa pensare a una crosta durissima, a una torta bruciata. Sono calmo, a mio agio. Se una macchina fosse arrivata ai 200 all'ora, se avessi sentito il rombo o intuito i fari, sarebbe stato del tutto inutile. Sarei morto e basta. Quella volta ho agito senza ragione. Non l'avevo mai fatto prima. Beh, dopo ci sono stati dei contrattempi. Ho potuto soltanto reagire. A 15 anni cercavo di agitarmi il più possibile. A 20 volevo guardarmi bene intorno prima di muovermi. A 25 non avevo il tempo per niente che non facessi già. A 30, ieri, ho pensato che sarebbe stato criminale abbandonare per la strada una ragazzina con la metà dei miei anni, nessuna idea di che cosa fare e zero preoccupazione al riguardo. Arrivata a Milano per una serata di libertà. Ho pensato anche che Ilario, il mio coinquilino ed ex collega, si trova da 3 mesi a Colonia presso la filiale di un'agenzia pubblicitaria internazionale per conto della sede milanese dove avevo lavorato anch'io. E ci rimarrà per altri 3, mentre qui si parla di una notte. La naturalezza con cui ha accettato l'ospitalità conferma che è stata fortunata ad incontrare me. Stamattina, rigirandomi nelle lenzuola cosparse di spilli e di mal di testa, ero quasi convinto della scelta impulsiva. Alzandomi ho poi scoperto che la presunta sprovveduta era già sveglia. Aveva cambiato le lenzuola, fatto una doccia, trovando da sola gli asciugamani puliti, sgranocchiato qualche biscotto e lavato i piatti che occupavano il lavello e il piano cottura. Mi ha accolto con una raffica di frasi asciutte. È stato quasi doloroso districarle l'una dall'altra. L'appartamento è arredato IKEA e lei non la prova affatto. Secondo lei ho dormito troppo e stare a letto così tanto non fa bene. Oggi c'è addirittura il sole ed è già 1:15. Dobbiamo scegliere se fare colazione subito e pranzo oppure lei può preparare da mangiare mentre io faccio una doccia. A fatica ho chiesto di cosa stesse parlando. Ma Lotta, ecco, mi ero già dimenticato del nome. Mi ha fulminato. Il frigorifero non lascia molta scelta, ha detto. 4 uova, burro e un avanzo di cipolla scarso, nessun formaggio se non si considera il parmigiano già grattugiato. Nemmeno il latte per fare un omelette decente. E soprattutto, niente pane. Sono fuggito in bagno. Le uova si sono rivelate né bruciate né troppo salate, perfino buone per quanto possibile. Ero sempre più perplesso. Mi sono complimentato per le insolite capacità organizzative e Lotta ha risposto solo che sapeva arrangiarci. Beh, l'aveva imparato, ha aggiunto. Per forza! In crisi ho domandato se avesse chiamato i genitori o mandato un messaggio. Non ho mica 10 anni. Beh, in effetti 5 di più. Mi veniva in mente solo una parola: cospiratrice. E così l'ho detta. Sei una cospiratrice. E tu sei strano. Hai una forbice? Davanti allo specchio del bagno ha iniziato a staccarsi pezzetti di capelli, alcuni minuscoli, altri più consistenti. Ancora frastornato, ho ricevuto una chiamata di mio fratello, Guido. Evento più raro di un'eclissi di sole e molto meno gradito. Urlava come al solito nell'auricolare. Tenevo il cellulare lontano dall'orecchio. Assentivo senza neanche ascoltare mentre Lotta chiedeva pareri sulla pettinatura. C'è una donna lì con te? Ma smettila, sto guardando un film. Ah, ecco, mi sembrava strano. A operazione conclusa con una smorfia, Lotta ha deciso che era ora di uscire. Eravamo in casa da troppo tempo. H&M è un'industria di abbigliamento svedese. Produce e vende vestiti, scarpe, accessori per donne, uomini, adolescenti e bambini, per la maggior parte made in China. Ha 2.300 store in 38 paesi diversi e sfiora i 100.000 impiegati. Io questo non lo sapevo. L'ho scoperto più tardi su Wikipedia. Per me era solo un grande magazzino dove di tanto in tanto compravo jeans o magliette. Quando ho chiesto a Lotta come mai non tornasse a casa, mi ha risposto che preferiva uscire già che si trovava a Milano. E voleva proprio andare in centro. Nonostante i miei tentativi di convincerla che c'erano mille altri posti più interessanti rispetto a quell'agglomerato urlante di ragazzini, madri, poliziotti, piccioni, giapponesi e psicopatici che è Piazza Duomo durante il weekend. No, no, lei voleva il centro. E così ha lasciato la borsa da me, contando di tornare nel giro di un paio d'ore. Mi andava di accompagnarla. Se l'ho seguita invece di passare il pomeriggio su un social network o guardando serie in streaming, è perché nella testa avevo un punto di domanda cubitale. Ma quella, chi era? E così abbiamo preso il tram dalla piazza di periferia in cui abito e come da copione percorso la vasca di Corso Vittorio Emanuele fino alla meta. Non potevo immaginare che Lotta avesse dichiarato guerra ad H&M. Entrati nel negozio siamo scesi per le scale, ricoperte di specchi. Sembravo io quello fuori di testa, non lei, con i capelli a scala cromatica e i vestiti da astronauta. Io ero ammaccato e sciatto nei miei abiti spenti, proprio lì dove i colori erano tutto. Sotto c'erano quintali di tavoli, appendini, mensole, vestiti di acrilico e petrolato, giganteschi pannelli con indicate percentuali da scontare. Disegni stilizzati di donne filiformi che trascinavano immensi sacchetti H&M, mani pronte a stropicciare, commessi gay sull'orlo dell'esaurimento, commesse con occhiali non camuffabili, musica reggaeton. L'aria climatizzata sapeva di sudore dolciastro. Lo spazio era circolare e ogni tot, mentre tallonavo Lotta, mi ritrovavo davanti alle scale da cui eravamo scesi senza però mai imboccarle e fuggire. Ero confuso perché di mestiere faccio il pubblicitario, il copywriter. Metto in fila le parole giuste, intercetto brandelli di tendenze linguistiche e costume, li riorganizzo secondo i segmenti di mercato, creo claim o slogan, come si diceva nel secolo scorso. Slogan che perforano i cervelli di milioni di sconosciuti, spingendoli a svuotare i portafogli dove dico io. E oggi pomeriggio Le conseguenze delle mie fatiche quotidiane si dispiegavano intorno a me. Non c'è altra dinamica possibile. Vieni da H&M perché quelle due iniziali evocano qualcosa, un posizionamento preciso nel tuo immaginario che ho stabilito io, o altri come me. Poi paghi. Beh, non c'è davvero nessun'altra dinamica possibile. Quando ho scoperto che oltre al piano inferiore ne esisteva un altro carico di biancheria, ulteriori accessori e cosmetici al silicone e alla paraffina, ho provato a farmi forza. Ormai anche le mie braccia erano stipate di vestiti. Quelle di Lotta non bastavano. Alla cassa c'era una coda lunghissima. Lotta si guardava attorno, quasi studiando le decine di persone che transitavano dalle porte scorrevoli, passando accanto alla guardia giurata più stanca di me. La fila procedeva. Quando ci siamo trovati vicini alla cassa e anche alla porta, mi ha guardato. Diego! Diego! I suoi occhi spiegati, accerchiati dal trucco acido, scintillavano. C'era qualcosa che lei sapeva benissimo e di cui io ero all'oscuro. Si è messa a correre, staccandosi dalla fila, superando la porta e gli antifurto. Io ero immobile. Lei volava e io ero immobile. Una scossa di impercettibile consapevolezza attraversava il volto della guardia, mentre l'allarme suonava. Gli sguardi di tutti mi bucherellavano. Io non avevo mai rubato niente. Lo giuro. Corro. Diego resta immobile. Ecco la strada. Lancio due o tre magliette brutte che tenevo già nella destra. Le butto a qualche dodicenne. Se escono, sono le prime ladre che incontrano. Quel che resta è soltanto mio. Non deve essere loro. Questo è l'importante. Mi risarcisco. Io sono un buco nero.